Io parlerei sempre al microfono se vi va bene, magari mi sforzo un po', che faccio volentieri. Fino a 2 settimane fa in Italia si parlava di conflitti di competenze, era un problema, adesso si parla invece di abuso di potere, e questo è il caso esattamente, perché io mi sto inventando critico letterario quando sarei un musicologo, però non è un abuso così grande, perché in realtà la disciplina che insegno al conservatorio si chiama letteratura poetica e drammatica e si occupa proprio del rapporto tra testo e musica, e quindi io mi inserisco in questa mia competenza che mi dà la soddisfazione ogni 27 di ogni mese, diciamo, di prendere uno stipendio come letterato, e finalmente per la prima volta nella mia vita colgo l'occasione di presentarmi nella mia veste, in una mia veste un po' desueta. Partendo dal principio che questa sarà, ve lo prometto, quindi se sono un disastro sarà l'ultima volta, è la prima e l'ultima volta, questo ve lo garantisco, quindi vivete una prima che anche un'ultima, quindi andate con qualche cosa di particolare. In realtà io non l'avrei fatto, non sono così pazzo né così un abusivista, ma in realtà, oltre ad avere un grande affetto per una collega che è musicista vera e propria e che mi aveva dato questa idea, al mio scetticismo ho reagito io stesso in modo molto positivo, leggendo quindi le poesie di Maria Rita, mi sono piaciute e quindi ho detto perché no, accettiamo la sfida e facciamolo. E d'altra parte non dobbiamo dimenticarci, e questo noi forse a scuola non ce lo insegnano abbastanza, che poesia e musica non è un'inviata corretta, perché poesia è musica, la musica è fondativa nella poesia e la musica nasce e fa nascere la poesia. E adesso vado a scomodare gli antichi greci, ma d'altra parte la metrica nasce soprattutto come istanza musicale, in doppio senso accentuativo, quindi ritmico, ma anche melodico. Gli antichi accenti greci avevano anche un significato melodico che è andato perduto nel tempo e che invece era molto significativo. Quindi quando Saffo o Mimnermo o qualsiasi altro poeta greco leggeva o scriveva una poesia, in realtà stava facendo un elaborato musicale. Purtroppo poi nel corso del tempo si è arrivati alla separazione dei campi del sapere, e quindi la musica si è tolta dalla poesia e la poesia si è tolta dalla musica, creando poi tutti quei disastri che conosciamo nell'opera lirica, quindi la riforma di Gluck, poi la controriforma di Wagner, poi il primo asino che si alzava e diceva ma la poesia dovrebbe essere trattata così, e l'altro che dice no, dovrebbe essere trattata così, ma tu sei tedesco, non capisci niente, ma tu sei italiano, guardi alla melodia, e così via. Però in realtà il rapporto tra testo e musica è assolutamente un momento fondamentale. Arrivando anche al paradossale, qui finisco con le mie stupidaggini, che addirittura Giuseppe Verdi si lamenta con un suo librettista e dice ma come Piave, ma tu mi mandi un libretto bello e io come faccio a mettere in musica un libretto bello? Dove c'è spazio per la musica? Quando il verso basta da sé stante. Questo per dire appunto che il rapporto tra testo e musica è un rapporto assolutamente fondamentale. Il fatto che quindi queste poesie siano state scritte da una collega musicista è secondo me proprio emblematico per questa unione di due generi, che peraltro non è neanche, voglio dire, una novità. Tutti sanno, ad esempio, che Quasimodo, tanto per dirne una, insegnava esattamente la mia disciplina, letteratura poetica drammatica, al Conservatorio di Milano. Lui era un po' più bravo di me, però, voglio dire, insegnava esattamente questa disciplina, ha vinto anche il premio Nobel, io forse arriverò, non lo so, a quale premio. Un altro che si è occupato in modo molto egregio e che partiva da una concezione musicale, questo non è noto, un altro premio Nobel, sempre italiano, che era Eugenio Montale, dove proprio la musicalità del verso è fondativo per il verso di per sé stesso. Quindi partiva da una concezione che era lirica, ma solo in seconda istanza, la concezione, la base è quella musicale. Ecco perché sono molto lieto di essere qui a presentare questo bellissimo libro che io e Maria Rita abbiamo vivisezionato in qualche modo e che abbiamo segmentato su 3 assi portanti, e questi 3 assi portanti verranno anche presentati, introdotti dalla musica della collega Chiocchetti, e cioè avremo una parte che abbiamo definito esistenziale, quindi avremo un po' da piangere. Avete i fazzoletti? Se no c'è Spotex magari. E poi abbiamo una parte sentimentale che invece è un po' una vox media interessante. Poi vi dirò anche quali parti musicali possono essere enucleate in questo percorso, e poi una parte descrittiva. Io volevo anche ringraziare la lettrice che è stata praticamente con metodi proto-nazisti obbligata a fare questa presentazione. Ci siamo forniti di una raccomandazione molto forte, qui vorrei ringraziare Marta Chiusole che al mare ci ha portato a una voce che poi è poetessa stessa, se ho capito bene. Quindi, come dire, abbiamo anche una un'interpretazione vissuta da una persona del ramo. Io volevo prima chiedere, prima di dire altre sciocchezze, ne sentirete tante, quindi preparatevi che andate a casa con una quantità impressionante. E io penso che poi Maria Rita non si sia, quando ho chiesto a me di fare questa cosa, non aveva presente come sarebbe andata questa presentazione. Adesso sei pentita. No. È pentita. Volevo chiedere a Maria Rita molto semplicemente. Se noi, molti di noi, riconosco anche i volti, andiamo ai concerti dell'orchestra Haydn, vediamo Maria Rita impegnata come professionista nella fila dei violini a eseguire. Come a un musicista che ha fatto della musica di professione viene in mente l'idea di scrivere le poesie? Quindi volevo sapere se c'erano dei momenti in cui ti ricordi qualche ricordo preciso o se questa idea va un po' nel vago, diciamo. Sì, l'origine va nel... Buonasera a tutti innanzitutto. È l'origine della prima scrittura, la prima poesia logicamente si perde nella notte dei tempi, perché sicuramente ero piccola quando... Credo che sia un amore nato parallelamente con la musica, perché credo che comunque anche la poesia c'era abbastanza presto nella mia vita. E certamente sento moltissimo questa continuità, che ha detto Giacomo molto giustamente, tra musica e poesia. E non la sento in termini tanto formali, la sento proprio per come io sento la musica. Nello stesso modo sento che ci si può esprimere anche con le parole, perché la parola è comunque musica, la parola può essere musicale, e la parola usata è usata in poesia, ha anche un ritmo che è musica, appunto. E quindi direi che appunto non c'è soluzione di continuità tra le due forme di espressione per me. Forse anche il fatto di aver goduto, perché ho avuto la fortuna di poter suonare veramente brani musicali di autori eccellenti, eccelsi, cioè di tutti i più grandi. Questa è stata veramente una grande fortuna della mia vita, di poter accedere non solo all'ascolto ma anche all'esecuzione di questi brani. Quindi chiaramente sono due cose differenti: ascoltare lo stesso brano e poterlo eseguire, soprattutto con dei colleghi, quindi in un gruppo. E quindi è veramente, qui si tratta proprio di vissuti musicali, eccetera. Quindi probabilmente, ecco, il fatto di aver avuto la possibilità di accedere e di rimanere così a lungo, per tanti anni, perché sono moltissimi anni che faccio questa professione, per così tanti anni veramente mi ha dato una ricchezza anche, cioè continuo a entusiasmarmi per questi brani che mi portano chiaramente verso, sempre verso un'idea di bellezza, di armonia, di assoluto. E nello stesso modo anche uno sguardo interno, esterno su di me ha un po' questa direzione verso la bellezza, verso la leggerezza, come anche la musica spesso può essere drammatica, ma è anche molto leggera, è aerea, è trasparente, finisce. Cioè noi eseguiamo la musica e poi non c'è più. C'è questa leggerezza che anche il titolo del libro stesso, Ali bianche di farfalle, per me è evocativo di questa leggerezza, di questo tipo di leggerezza, e in musica e in poesia in questo caso. Sì, direi che proprio la leggerezza sarà il punto che sentiremo poi alla fine, nella parte diciamo descrittiva, dove la leggerezza femminile prende il sopravvento sul momento invece, come dire, della sofferenza, perché è chiaro, adesso io faccio una battuta veramente molto sciocca, anche un po' greve, però è chiaro che l'arte parte dalla sofferenza. Chi soffre, come dire, sublima la propria sofferenza in arte. E ad esempio il mio maestro, che era olandese, faceva il musicologo, mi ha sempre fatto una domanda, adesso vi faccio ridere. Lui mi diceva sempre: ma secondo te, se Stradivari non avesse picchiato la moglie, avrebbe fatto dei violini così buoni? Questo naturalmente è una provocazione. Però che cosa voleva dire questo mio grandissimo maestro e personaggio strepitoso, al quale devo quella minima competenza mozartiana che mi è servita nella vita? Però mi ha fatto capire una cosa molto importante, che l'arte è sempre sofferenza. La sofferenza diventa poi processo estetico. Lo notiamo nei grandi compositori, lo notiamo nei grandi artisti, lo notiamo anche noi piccoli uomini. Quindi questo status di sofferenza che connota questa prima sezione che tra poco chiederemo di leggere è proprio il motivo stesso dell'esistenza della poesia. Ed è proprio questo che dà all'arte un suo significato estetico e direi addirittura esistenziale e profondo. Io proporrei, se tu sei d'accordo, di dividere le chiacchiere nelle diverse sezioni. Magari chiederei alla Gertrude se ci introduce alla lettura della prima sezione, e dove tra l'altro l'arpa non è a caso, perché anche l'arpa, intesa come cetra antica, era esattamente lo strumento che gli antichi lirici greci utilizzavano per le loro composizioni. Quindi trovo che sia veramente stata una scelta che avete fatto assolutamente perfetta. Magari ci dici cosa ci suoni. Suono Canzone della notte di Carlos Salcedo. Thank you. ringraziamo questa splendida collega che peraltro ha un pollaio di artiste, posso dirlo, un allevamento, che sono strepitose, vincono tutti i concorsi dove vanno, si fanno veramente apprezzare dappertutto e occupano posti in orchestre prestigiose, quindi se ne capisce anche la ragione. Io passerei adesso alla lettura. Abbiamo scelto in questa prima sezione 7 poesie che appartengono, come dire, alla sfera più dolorosa e più interiore della nostra autrice, che ha anche selezionato delle immagini. Magari ci vuoi anche dire, svelare già le immagini o lo dici dopo? Ma posso accennare, ad esempio. Volentieri. Questo è un paesaggio di Giorgio Morandi. La ragione è una ragione solo mia personale, io spero che anche a voi possa comunque evocare un po' un senso di, diciamo, la pittura di Morandi in questo caso è così sfumata che a me lascia veramente lo spazio mentale, e spero che anche, diciamo, da questa prossima lettura si possa vivere, ecco, con questa prossima lettura si possa vivere un tipo di emozione simile, come qualcosa che possa assomigliare alla visione di questo tipo di pittura. No, sei stata chiarissima, ma d'altra parte devo dire una cosa: quando parlavamo di questa presentazione avevamo fatto qualche rilievo alle arti visive, io ho detto tu sei Morandi per me, e l'avevo quindi capito anch'io, perché noto un certo senso, come dire, della simmetria nelle poesie, ma nello stesso tempo un qualche cosa che va al di là delle quattro linee, quindi un apparente senso di serenità che però va nella profondità dell'anima. Io intendo così anche Morandi, e direi che se c'è proprio un autore, secondo me, che è molto simile alla tua poetica, se dobbiamo fare dei paralleli, sia proprio questo. Quindi chiediamo alla signora Osler gentilmente di leggerci queste poesie. Io la ringrazio veramente di cuore, perché è stata veramente placata e obbligata ad aiutarci in questa situazione. Beh, io oltretutto sono un po' senza voce data la stagione, mi scuso, mi sentite, perché non vorrei usare il microfono e spero di non rovinare con la mia lettura queste belle poesie e di riuscire a trasmettere almeno in parte quelle emozioni che la signora senz'altro provava mentre le componeva, insomma. In caso mi perdonate, perché avete sentito, no? Mi ha telefonato 3 giorni fa. Due forse. Due, sì. Vabbè, insomma, io ci provo, sono coraggiosa. Senza titolo. Non c'è di peggio che sentire di non avere vissuto nelle giornate piene di cose inutili. Assaporato ogni vino, gustato ogni prelibatezza, goduto di ogni tramonto, vibrato con ogni musica. Ogni senso sollecitato al massimo, ogni virtù faticosamente conquistata, ogni pensiero lasciato andare, ogni persona amata. Parole. Parole spuntate come vecchi chiodi arrugginiti fissano l'anima. I bordi sanguinanti appesi alle pareti di una vita vissuta, liberamente interpretata dall'attrice che è in me. Eros e Thanatos. Questa sera la morte è apparsa vicino a me. Suonava una musica allegra, ma lei era lì. Ed io l'avvertivo con acuta certezza. Era la mia morte, ciò che mi appartiene da sempre e mi aspetta come un cane fedele, amica quasi. Le ho dato la mano fiduciosa ed eravamo una cosa sola. Un'ala, un soffio, un battito di ciglia e via, tutto è finito, lasciato alle spalle, senza rimpianti. Senza rimorsi, così, semplicemente. Sento la sua forza vibrarmi dentro, altro lato della vita, grande mistero e passione. E mai, come stasera, ho vissuto. non sono più nella mia stanza. Sono là, sulla scogliera a picco sul mare. E la pioggia, questa stessa identica pioggia, mi bagna, mi inzuppa l'anima. Il rumore delle onde schiumose, gli odori acri del verde e del sole e tutto quel grigio, ora chiaro, ora plumbeo, di questo è intriso e si permea il mio cuore, selvatico. Interno. Dopo avermi dato tutto, tutto mi hai tolto, ma io non sono più quella di prima. Un'anima scuoiata, ridotta a carne viva, dolorante per ogni minima brezza. Molto ben nascosta altrove quella serenità che vado cercando. E in me stessa la soluzione. Angoscia. La finestra dà sul fiume che corre impaziente e torbido. Quante gocce lavano oggi l'anima mia. Un senso di inevitabilità nel cielo plumbeo. E corro verso il mio destino, carica di qualcosa che assomiglia molto all'angoscia. Assenza. Ogni attimo è distillato dalla solitudine, come una goccia che scende dal tino. Grazie. Io direi che in questa prima sezione, a parte naturalmente a aver prova della grande sensibilità che solo un poeta ha, naturalmente, un poeta, siamo tutti poeti, diceva Goethe. Poi quando leggo questa frase di Goethe dico sì, però tu hai scritto poesie, capolavori, e io no, quindi qualche differenza ci sarà. Naturalmente il poeta è come un vaso, è come un tramite, è una persona che ha una sensibilità particolare che tramuta, diciamo, in senso estetico gli attimi di sofferenza, di perplessità, gli attimi appunto esistenziali. Nella seconda poesia tu ti definivi attrice, volevo sapere cosa intendevi in questo senso. Ma in questo senso attrice, credo che, beh, naturalmente è difficilissimo, come potete immaginare, razionalizzare quello che è un linguaggio poetico, cioè io direi quasi impossibile, cioè sono domande anche abbastanza crudeli tutto sommato. Sono cattivissimo, sì, infatti mi sembra piuttosto crudele. Chiaramente in quel momento per me era molto un'immagine. Chiaro. E corrispondeva certo a un sentire. E non posso pensare, cioè, con questo non intendevo dire assolutamente che sono una persona che finge, che recita, assolutamente, infatti il significato non è letterale ed è molto difficile per me spiegare esattamente che è cosa... liberamente interpretata, nel senso di libertà. Sì, anche. Cioè, tutte le interpretazioni sono possibili in questo caso, io vi invito se... avrete l'occasione di rileggere, non lo so, di... mi è molto difficile poter dare un senso che sia quello. Certo, è questo che vogliamo anche capire, quindi anche il senso che il poeta, che l'artista dà al valore parola, perché la parola ha dei valori assoluti ma anche dei valori relativi. Esatto. Ed è proprio su questi valori che ci interessa ricostruire l'ottica poetica, sì, diciamo. E questo io vorrei aggiungere, allora, visto che prima mi avevi fatto una domanda, che in questo senso io sento molto l'interazione con chi legge, cioè in questo caso veramente è sempre quando una persona legge, quindi leggerà delle parole di una poesia, può darsi che risuoni in quella persona qualcosa di sé, e questo senza... per me è veramente un'interazione, è quello che mi piace. Esatto. D'altra parte, quindi mi è difficile dare certo, un'interpretazione. D'altra parte queste parole sono anche importanti perché tu sei attrice stessa nel senso di interprete di musica altrui, sì. Quindi tu sei nella vita, come dire, in questo modo anche quel tramite, certo, che rende possibile, certo, l'esposizione dell'arte. Certo, non, no? È disgiunto dalla mia professione in fondo, perché comunque, uh-huh, il fatto di interpretare sempre è una costante. Decisamente nella mia vita, quindi grazie di averlo aggiunto. Questa adesso è una cosa assolutamente, sì, importantissima, sì. E poi quello che mi stupisce è anche il senso tipicamente femminile. Io ovviamente vedo le cose da maschio, noi abbiamo un tipo di sensibilità ovviamente diversa, forse non abbiamo quel senso del piccolo, della forma piccola, del dettaglio magari, che invece mia moglie mi fa sempre le pulci, dalle 7 del mattino alle 7 di sera sono massacrato di tutti gli errori che giustamente commette qualsiasi marito di questo mondo, tra virgolette. Ma noto anche nella scelta della forma poetica, che è una forma aforistica, cioè si tratta di poesie piuttosto brevi, proprio questo senso tipicamente femminile del dettaglio. Non so se tu sei d'accordo in questa mia ricostruzione, sì, vedendola dal tuo punto di vista, e soprattutto un grandissimo senso di osservazione, sì, del dettaglio. Sì, infatti si tratta proprio di gesti di osservazione. A me viene spontaneo di osservare i dettagli, quindi fa parte della mia natura, quindi, no? Anche quando semplicemente agisco in qualsiasi cosa mi è veramente naturale di, ma non per senso di precisione, proprio per gustare di ogni particolare delle cose che vedo, e quindi direi che senz'altro è così, cioè c'è una visione del dettaglio. Nello stesso tempo credo che la sintesi, io perlomeno non vorrei adesso dare una definizione di sintetiche, uh-huh, perché sarebbe eccessivo, magari non sono sintetiche, però comunque mi piace che la forma sia un po' scarna, cioè non troppo ridondante, ecco, uh-huh, senza per questo trovi anche una certa brevità, esatto, forse, in questo senso. Qui ci piace citare Puccini, La brevità, gran pregio, primo atto della Bohème, tra l'altro. Quindi, e un'altra cosa che mi ha colpito è anche nella poesia Interno, che era la quinta che abbiamo ascoltato, anche delle citazioni, che noi non sappiamo se sono citazioni volute o reminiscenze, ma d'altra parte, quando Mozart cita una composizione di un altro autore, lo sta facendo apposta o è semplicemente perché l'ha sentita e la cita e non si ricordava più, oppure semplicemente che il do e mi, come le parole, sono degli elementi fissi e statici e comunque ricorrenti, non lo sappiamo. Comunque ricordava un sonetto di Petrarca, nel quale Petrarca fa anche un parallelo tra quella che è la passeggiata, il camminare a piccoli passi, e quella che è la vita umana, ed è uno dei madrigali più belli che siano mai stati composti, peraltro da Luca Marenzo. Quindi noto una certa scelta lessicale simile, che sia appunto dovuta ad una scelta tua o che sia invece semplicemente una reminiscenza, come noi abbiamo tante volte nella vita, questo lo sappiamo. Io volevo però chiedere alla nostra lettrice se ci poteva leggere di nuovo una poesia, piccola piccola, che è l'ultima che hai letto, perché io volevo dirvi una cosa. Non sono appunto un critico letterario, però sono un appassionato lettore. Io sinceramente trovo che questo aforisma sia veramente un capolavoro, trovo che sia forse tra le poesie che leggeremo stasera, per me veramente tra le più belle e le più riuscite, quindi mi concedete questo piccolo bis prima di passare alla prossima sezione. Assenza? Mm-hmm. Esatto. Assenza. Ogni attimo è distillato dalla solitudine, come una goccia che scende dal tino. Io lo trovo veramente, scusate, una poesia veramente meravigliosa. Ce ne avrebbe manca, potuta, sì, poi ne leggeremo forse ancora, esatto, sono d'accordissimo, infatti è stata una di quelle che avevo voluto assolutamente. Si tratta veramente di un piccolo capolavoro, e d'altra parte anche qui i grandi maestri della cultura ci insegnano che a volte basta un verso, sto pensando a Ungaretti ovviamente, per fare un capolavoro. E, esattamente, non c'è bisogno di andare a scomodare tante parole e tante note. La musica è fatta anche da piccoli quadri geniali di Haydn e non solo dalle tante note di Richard Wagner o di Richard Strauss. Spesso il genio è anche sintetico, e quindi io volevo sottolineare l'affetto profondo che ho per questa poesia, che me veramente ha colpito e mi è piaciuta molto. Volevo anche sottolineare una cosa secondo me molto bella, e cioè che queste poesie esistenziali, che nascono quindi dal disagio esistenziale che abbiamo tutti, d'altra parte l'arte è sempre una risposta alla domanda chi siamo, dove andiamo e che cosa ci sarà. Avete la risposta? Se qualcuno ce l'ha, mi fa un piacere. Però direi che in questo gruppo di poesie si trova proprio questo aspetto esistenziale, che però traduce anche un senso pieno e forte dell'esistenza, un amore incredibile verso la vita. Sei d'accordo con me? Sì. O interpreto in modo scorretto, diciamo? No, è correttissima questa. No, credo che anche nelle poesie, queste che abbiamo letto, forse anche in altre, diciamo più drammatiche, oppure dove ero più in contatto con alcuni aspetti di sofferenza in quel momento, però coesisteva sempre, cioè per me era sempre presente anche l'altro aspetto, comunque l'amore per la vita, comunque in pratica, sì, la speranza, detto in una parola, la speranza, ma quasi devo dire coesistono questi momenti, sono completamente mi manca il verbo, cioè coesistenti, ecco. E l'altra cosa che io noto è appunto la differenza che ci può essere tra, come dire, un tecnico come me e un artista. Naturalmente l'artista tramuta tutto in estetica, quindi il momento di sofferenza che magari a noi può far suscitare una parolaccia, un senso di disagio, ecco che l'artista lo tramuta in un momento estetico e quindi diventa in sé anche il disagio, che nasce quindi da una percezione negativa nei confronti di una determinata questione, diventa in realtà il superamento stesso del problema. Sì. E io ho notato questa grandissima forza in questa sezione, direi che le poesie ubbidiscono quasi tutte, anche l'ultima che abbiamo letto, ripeto, secondo me è bellissima, ubbidiscono proprio questa forza intrinseca veramente gigantesca, che ci fa capire quanto l'arte non sia semplicemente un lusso, ma dal mio punto di vista anche sì, una necessità. Certo. Arte come sublimazione delle passioni, dei sentimenti, degli affetti quotidiani, perché chiaramente tutto questo riguarda la quotidianità, riguarda qualsiasi aspetto della vita, e le poesie sono state scritte non per situazioni eccezionali, magari lo spunto era veramente lo spunto, diciamo il pretesto era una situazione, in realtà per me si trattava di osservare uno stato d'animo, ecco, diciamo che tutto il gioco interessante per me era osservare questi stati d'animo. E certamente è molto importante, riflettendo appunto su questa forma, diciamo, di espressione, la sento molto arte come catarsi in questo caso, per questo, soprattutto per quel che riguarda questo tipo di espressione, così un po' drammatica, come le poesie che abbiamo sentito, che ho scritto. E anche la parola espressiva cura, ecco, c'è una parola che cura, oltre che i suoni che curano. Qui sta parlando della musicoterapeuta. Sì, allora, i suoni curano, c'è una musica che cura l'anima, raggiunge l'anima direttamente, non ci sono vie intermedie, quindi anche una parola che quindi passa dal nostro cervello è già qualcosa di più, volendo più razionale in un certo senso, però c'è anche una parola che cura, secondo me, è la parola espressiva. La parola veramente espressiva di qualcosa di autentico è cura la persona, è terapeutica, sì. Ecco, e contattare esperienze, cioè contattare emozioni, sentimenti anche difficili da contattare, in realtà porta, secondo me, a un'esperienza di vita più completa, ecco. Perché attraverso queste forme di sublimazione ogni sentimento è legittimato, secondo me. Assolutamente. E questa è appunto la potenza della poesia, diciamo, rispetto a un momento di prosa. Io, se sei d'accordo, passerei alla seconda sezione, che noi abbiamo intitolato sentimentale. Quindi qui è l'altro grande problema che viene sollevato, dell'amore che qui non ha niente di in sé di significato o di significante erotico, ma è un amore di tipo ancora esistenziale, come una persona che, occupandosi di musicoterapia, può vivere, quindi con una sensibilità estremamente profonda, che non si rifà a fatti, luoghi e persone, ma che ha un significato esistenziale in assoluto. Chiederei alla Gertrud di dirci che cosa ci suona di bello. Visto che in questa bella poesia c'era la goccia, allora suono la sorgente di Alfons Hasselmans. mi dicono per i tempi, voi avete tempo fino a mezzanotte? No, scusate. Non preoccupate, ci stiamo tenendo bene. Perfetto. Me lo dite un minuto prima magari, prima di buttarci fuori. Adesso la seconda sezione, le poesie, poi ridirà i titoli la nostra lettrice, sono Nubi, San Valentino, Primavera, ancora Primavera, Vita e Senza Data, anche un'altra poesia, secondo me veramente molto molto bella, sì, sì, veramente un capolavoro. Nubi, nubi vagano all'orizzonte come i miei pensieri, ora cariche di sogni, ora grevi di malinconia. Questa San Valentino, un cuore trafitto da niente. Primavera. Gocce tintinnano sul tetto e cantano la loro musica. Aspetto qualcosa che arriverà. È un autobus o il treno della mia vita. Tanto è serena questa cantilena quanto angosciata l'attesa che il fiore sbocci. La terra e la mia anima bevono questa pioggia, assetate di verde. Ancora primavera. Il primo giorno di primavera è un barlume di gioia nel cuore. Vita. Vado per uno strano paesaggio interiore, peregrinando senza tregua. Bisogno di terra, di radici profonde che raccolgono la linfa. Passo dopo passo mi nutro della mia stanchezza. Divento albero, altri alberi intorno a fare un bosco intero, una solitudine profonda. Rugosa corteccia ha il coraggio di fiorire con un tenero germoglio. Tutto il verde possibile in quelle foglie nuove. È la vita che continua. Grazie, ma ho viaggiato con la sciarpa tutto il giorno, ma vabbè, senza data. Come un abito nuovo, i tuoi pensieri su di me vestono la notte. Sì, questa è la... Adesso questa è una nuova sezione, questa è anche secondo me molto bella, aforistica e giusto abbiamo terminato sì, la sezione, sì. E poi veramente molto musicale nella forma e nella sostanza, devo dire. E qui forse arriviamo nella parte secondo me più musicale che abbiamo tenuto apposta, perché una buona opera teatrale è quella che ha un fine, diciamo, un finale più importante. Questa secondo me, in questa sezione che abbiamo chiamato di tipo descrittivo, notiamo forse i maggiori punti, i tratti di unione, diciamo, tra poesia e musica. D'altra parte noi magari andiamo in un'opera, ascoltiamo un'aria e non ci rendiamo conto che dietro quest'aria si celano dei principi compositivi ben precisi. Adesso tu sei spaventato e dici, ma dove sta andando? Ma sta arrivando a un certo punto molto importante, cioè il fatto che l'aria più importante dell'opera lirica in assoluto nel suo sviluppo, da Claudio Monteverdi a Puccini, è la cosiddetta aria di paragone. Che cosa significa questo? Che il personaggio paragona la sua propria situazione a quello che è un evento che può essere atmosferico, una situazione descrittiva, eccetera, eccetera. E quindi si crea questa lettura parallela tra il sé stesso e invece una realtà descrittiva circostante. Ed è qui, secondo me, che scopriamo il terzo aspetto importante di Maria Rita, cioè l'aspetto della leggerezza, della purezza, di quella sensibilità femminile che avevo detto prima, del gusto del dettaglio, con questa sua capacità di guardare nel profondo delle cose e di ascoltare anche profondamente, come ci possiamo, come dire, aspettare da un musicista che è anche musicoterapeuta, quindi dove l'ascolto non è soltanto l'ascolto attivo, passivo, ma diventa un ascolto attivo funzionale a ricreare determinate situazioni. Ecco, io volevo chiedere a Maria Rita se questa sua posizione di musicista che deve ascoltare in un certo modo e di musicoterapeuta che deve ascoltare in un altro modo e poi, perché no, di moglie e di mamma, naturalmente, che deve ascoltare e dare una voce nella famiglia, quanto è stata secondo lei questa esperienza importante e fondativa nella sua vita e quanto lo è? Quanto? Tanto. Rispondo sinteticissimamente. Il percorso, cioè posso dire che questo è stato un po' un percorso comunque, di arrivare a un ascolto sempre più profondo, sempre più intenso. Non sono nata sapendo ascoltare assolutamente, e neanche in questo momento sono in cammino verso comunque, diciamo, quello che poi è un ideale, di essere perfettamente, cioè di mettersi anche un po' al servizio in questo caso. Perché chiaramente quando ascoltiamo noi siamo un po' al servizio dell'altro, noi mettiamo da parte le nostre parti e diciamo, beh, in questo momento io adesso non sto ascoltando le mie parole che mi risuonano dentro perché voglio ascoltare quello che l'altro veramente mi sta dicendo o addirittura quello che intende dire o che non riesce a dire. E nel caso che l'altra persona addirittura non riesca a dirlo, appunto, perché qui ci sono poi tanti tipi di ascolto, tantissimi tipi di ascolto, c'è l'ascolto importantissimo nella relazione, ad esempio, anche nella relazione quotidiana, quella che abbiamo con i nostri vicini, con i nostri familiari, ecco. Quanto è importante saper ascoltare per avere una vera relazione, altrimenti siamo sempre due entità che continuano a interagire ma senza mai essere determinanti per l'altra persona. E quanto, sottolineo, quanto è bello ascoltare, quanto è bello essere ascoltati e sentirsi ascoltati. Penso che sia una delle esperienze più belle. Poi c'è l'ascolto musicale, per il mio lavoro certo devo ascoltare più attentamente possibile per inserirmi nella maniera più giusta oppure anche correggermi, per, certo, questo è poi anche un altro aspetto un po' più tecnico, diciamo, dell'ascolto. Però ecco, forse quello che sento vibrare di più dentro di me è l'ascolto della comunicazione, necessario alla comunicazione. Questo lo trovo estremamente bello, proprio un mondo da scoprire. E d'altra parte io penso che un poeta sia colui che sa ascoltare e vedere, sapendosi in qualche modo annullare in senso positivo, perché l'annullamento di noi stessi dà la possibilità ai nostri partner di esprimersi e di essere ascoltati, come succede a Ballarò praticamente, o a Kurt Lerner, più o meno. Vorrei anche dire che c'è un'opera che ci insegna che l'ascolto è la base, come dire, della tolleranza e della reciproca accettazione, che è il Flauto Magico, dove addirittura Pamina paga, come dire, con la morte potenziale, perché viene fermata sul suo gesto di suicidio, il silenzio di Tamino. Ma perché Tamino tace? È una prova, semplicemente, è semplicemente un espediente per dire: se io voglio capire, devo saper prima annullare me stesso e saper ascoltare gli altri. Ed è da qui che nasce, secondo me, il punto di forza di questa terza sezione, perché questa capacità di saper ascoltare e di saper vedere, di penetrare nel dettaglio con grande sensibilità di Maria Rita, determina la bellezza di alcune poesie. Volevo solo anticiparne una che mi ha molto colpito. Sotto il profilo tecnico è la poesia forse più semplice, meno poetica e più prosaica, che si intitola Ospedale. Sì. Ma io trovo bellissimo veramente l'inizio: cerco la bellezza in una corsia d'ospedale. Io trovo che questo sia veramente fantastico. Quante volte noi non sappiamo cercare la bellezza? La bellezza spesso non è una cosa che ci viene offerta così. Spesso la bellezza va appunto ricercata, e quindi io sono grato a Maria Rita anche per questa poesia che mi ha cambiato un po' le prospettive nelle mie giornate. Oggi cercavo la bellezza nel conservatorio, non offenderti, nell'aula 43 non la trovavo, però ho trovato, scherzi a parte, però ti ho pensato mentre facevo lezione nella 43, dove lottavo con l'impianto stereo che non funzionava. Vabbè, scherzi a parte, però naturalmente questa è la parte, come dire, del terzo punto, cioè dell'estetica, laddove appunto il poeta trasforma la sofferenza e l'osservazione in un momento estetico che diventa poi un momento di piacere anche per gli altri. Possiamo suonare, prima di tutto cosa ci suoni di bello? Le suono Lungo la sorgente nel bosco di Marcel Tournier. Thank you. Quindi ascoltiamo adesso Foglie, il ballo, ospedale, attesa, autunno, Sardegna e febbraio. Foglie, tremule, verdi farfalle contro il cielo blu, piccole geometrie di un tutto. Vedo il mondo in un caleidoscopio. In esso, solo per un istante, mi dissolvo. Il ballo. Ballare, ballare. Una musica da lontano. I piedi, tutto il mio corpo lentamente si sciolgono dal doloroso nodo intorno all'anima. Trovare uno spazio e fluttuare ritmicamente, fino ad un vorticoso giro, librarsi da ogni stretto legame e fondersi, infine, con l'altro. Attimo di sospensione. Ospedale. Cerco la bellezza in una corsia d'ospedale, dietro quei camici bianchi e sui visi dei malati, ma è ben nascosta. È difficile vederla qui. Tutt'al più la si può immaginare, chi lo impedisce, nei gesti amorevoli di chi è pagato per farli, o nelle composizioni di fiori finti in sala d'aspetto, o nella mia vita. Attesa. Piccoli fiori bianchi, i fiori dell'attesa. È una sospensione per l'anima. Poi i suoni annunciano l'arrivo, brevi passi nel sospiro del vento. Qualcuno. La casa si ravviva di luci e le persone prendono posto nella stanza già vuota. Un gatto sorveglia disponibile e attento, distolto dalle consuete cure, e infine riprende a dormire. Autunno. Amo la quiete silenziosa di certi pomeriggi in profonda solitudine. Non un suono né una voce, ma tanti colori e luce. Un manto dorato su di me. Gli attimi si allungano ed ogni singolo respiro è un breve soffio sottile. Dalla luce sugli alberi, la speranza che ogni foglia, ora caduta, poi rinascerà. Assaporo questo lento disfarsi della natura, questo dolce declinare. Vi è un'attesa di vita, di novità, per chi sa guardare oltre la morte di oggi. Sardegna. Tornare alle odorose siepi, ai cespugli al cielo confuso col mare sullo sfondo. Tornare a un amore antico e ritrovare la propria casa con le stanze abbandonate un tempo. Tornare a nutrirsi di parole sussurrate o urlate ai quattro venti. Parole silenziose, dette solo per amore. Febbraio. La mia vita nel petto che ondeggia il ritmo del respiro. Un corpo e un cielo uniti sotto questo tepido sole di febbraio. Cosa desiderare se non attimi di statica quiete, di immobile sintonia nello scorrere perenne e inesorabile del fiume. Suoni, fuori e dentro. Le parole che sorgono e vibrano chiedono di uscire, come pure quella vaga melodia che arriva dall'anima. Siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento. Avete notato come qui determinante in queste poesie non è tanto il lessico, ma in questa sezione il ritmo, ed è per questo che l'abbiamo scelto. Si sente benissimo il 2/4, il 3/4, chissà se era voluto dall'autrice oppure no, ma si sente proprio questo ritmo incalzante, regolare, molto bello, che determina poi la scelta lessicale in qualche modo. E mi viene anche in mente una cosa molto bella di Leopardi che avevo visto, e cioè Leopardi a un certo momento, in uno scartafaccio che è stato pubblicato di recente, ha fatto addirittura una cernita di termini, tra termini poetici e musicali, termini poetici e termini. E guarda caso, nei termini poetici e musicali ha messo tutti quei termini che poi hanno costituito le sue poesie più importanti, e quindi ci riporta ancora a questa unione tra musica e poesia, laddove la parola non è soltanto un lessema, ma è soprattutto un suono e quindi momento estetico. Abbiamo ancora un brano, se non sbaglio, o no? Non era? Finito. Era finito. Quindi, se non abbiamo più un brano... Con la poesia. Ah, perché pensavo perché lo... in sottofondo. Sì. Ah, magnifico, benissimo. Sì. Questa è una sorpresa, benissimo. Un colpo di scena finale. Devo dire che una volta mi è successa un'altra sorpresa al contrario, che... qualche perfido collega mi aveva mandato a intervistare un compositore contemporaneo che è Arvo Pärt, e dovevo fare questa intervista in diretta. La sfortuna volle che Arvo Pärt odia le interviste. La prima risposta che è stata: io a domande così stupide non rispondo. Quindi devo dire che lì ho avuto un marasma, cioè una sorpresa al contrario. Siamo riusciti a gestirla, poi a un certo momento abbiamo inondato il povero Arvo Pärt di parole, quindi lui avrà detto un sì, un no, un ma, e abbiamo risolto il problema. Qui invece la sorpresa è al contrario, perché togliamo il silenzio e andiamo invece a poetare il silenzio. Io volevo chiedere soltanto l'ultima cosa a Maria Rita, e poi lasciare, se volete, prima dell'ultima poesia, che sarà il nostro commiato, che si intitola significativamente Il silenzio, e che il silenzio non sarà, appunto. Dicevo, volevo chiedere a Maria Rita, queste poesie, diciamo sotto il profilo cronologico, quanto tempo coprono della tua vita, grosso modo, e a quante situazioni, diciamo, si rifanno? Cioè sono nate come un blocco unico? No. O sono semplicemente... No, sono molto dilazionate nel tempo. Ecco, cioè, non le dato più di tanto, cioè 10-12 anni. Ah, cioè ecco. Sì, questo per avere un termine cronologico. Sì, sono dilazionate, qua e là. Uh-huh. E volevo anche chiederti una cosa da filologo. Quando è che reputi una poesia finita? Cioè, è finita o sei una persona che ritorna sempre sul testo? No, credo che la poesia non... Anche queste stesse poesie, alcune non sarebbero finite, però sono state pubblicate così, e questo per il momento dà una certa forma, diciamo, definitiva, tra virgolette. In realtà credo che si possa veramente limare e lavorare continuamente, perlomeno su alcune opere, magari non su tutte, su alcune, però su alcuni particolari si potrebbe. Grazie mille. Per me è anche un dato importante, perché anch'io leggendo queste poesie non riuscivo a immaginarmi, anche se mi ero immaginato che ci fossero ambiti cronologici, una cosiddetta forchetta abbastanza significativa. Io non so se qualcuno del pubblico aveva voglia di fare qualche domanda, o se invece preferite che andiamo verso la conclusione. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Forse vorrei dire io, sì, una cosa, certo. Perché tu hai detto una cosa molto interessante, il silenzio che poi non sarà silenzio. Esatto. Perché in realtà noi leggeremo una poesia, ci sarà addirittura la musica, quindi sarà il contrario, addirittura un doppio suono, cioè... Ma perché questo, anche perché in realtà il silenzio proprio assoluto non esiste, in natura anche non esiste, cioè è sempre un silenzio che, qualsiasi silenzio è pieno di altre cose, sono cose sottili, rumori di sottofondo se vogliamo, ma comunque il vero silenzio assoluto non esiste, quindi in questo senso è detto proprio, secondo me, una cosa importantissima. che noi siamo abituati veramente a non, anche forse a non fare nostre queste esperienze, a non gustare il silenzio, a non pensare al silenzio come pausa, ecco, semplicemente. Ecco, per me il silenzio è una pausa. E vorrei anche aggiungere un'ultimissima cosa, che, perché l'ha detto un grande direttore, che è Markevich, sì, certo. Ho trovato questa bella definizione: il silenzio è l'assoluto della musica, questo ha detto. È questo senza dubbio il significato profondo del detto di origine indù: musica perfetta, non più musica. Mi piaceva concludere con questo, con questa poesia e con questo pensiero anche, che si può andare oltre, quindi anche oltre le parole, oltre i suoni. Ringrazio quindi Maria Rita Di Pasquale per essersi prestata ed essersi messa in gioco. Io ricordo che ad esempio quando mia mamma aveva pubblicato una raccolta di poesie mi vergognavo quasi dai per la strada e l'ho odiata per diversi mesi. E ho sbagliato, e quindi io sono qui, e l'ho detto alla Margherita, sì. Quindi svelo, proprio per pagare il pegno con mia mamma, per essere stato ingiusto con lei. Ho detto: Margherita, presento io, non so come lo farò, e magari sbaglia chi di me, però presento io perché devo pagare questo pegno con la storia, per essere stato così ingiusto con mia mamma. E rileggendo le sue poesie noto che anche lei è stata molto brava, ha fatto delle poesie bellissime. Ascoltiamo quindi Buffo. Ascoltiamo quindi il silenzio nella doppia interpretazione testuale e musicale, e ringrazio ancora la lettrice e la collega musicista che si sono prestate a questo nostro gioco, e ringrazio tantissimo Maria Rita per avermi dato questo onore, questa responsabilità e questa gioia di aver presentato questo libro che mi è anche piaciuto tanto leggere, quindi sono grato anche del momento che la lettura mi ha suscitato, delle sensazioni, delle emozioni forti che ho potuto vivere. Ringrazio naturalmente anche voi per la vostra presenza e per essere venuti a questo appuntamento. Anch'io ringrazio tutti per l'attenzione, è stata una serata molto molto piacevole, e grazie soprattutto a voi. Il silenzio. Accettare il silenzio, il vuoto, il niente di certi lunghi atti. Contatto che spaventa col nucleo di sé, essenziale e scabro. I pensieri si susseguono, ebbri di parole, incessanti inutilità. Poi la quiete assoluta. Assenza di suono, eppure perfetta vibrazione. Il silenzio è abbandono, un ritiro dal mondo, dal frastuono, dall'inessenziale.